tanto se ci vuole, dai, già fa piacere. Hola, prego. Sì, ora vi chiamate alle 8, avanti. Stavo parlando con la Puglia e c'era un CB, un vecchio CB di Alghero, c'era un'antenna piccolina di quella della Midland, adesso non mi ricordo si chiama la booster, comunque era 90 cm di antenna, piccolissima, e arrivava benissimo Santiago 5, Radio 5 dalla Puglia, in Puglia arrivava, da Alghero Puglia, un'antenna da niente, e quando c'è propagazione vai tranquillo che puoi avere l'antenna migliore del mondo, che in quelle condizioni sono tutti uguali, guarda, non puoi fare nessuna distinzione. Allora, se tu hai un'antenna, anche un bastone da un metro, vabbè, diciamo che guadagni di diverso, comunque sia, se la metti in punta, in alto, arrivi dappertutto, solo se tu metti un'antenna da un metro ti fa 1,20, no, se metti una piccola ti fa 1,50, ma c'è guadagno, c'è, a Puglia, però anche una terra piccolina, a secondo me ti va benissimo, parli, non dico tutto il mondo, ma quasi. Quello stesso, ti giuro, non mi ricordo come si chiama il nome di quel modello, di quell'antennina, comunque un'alta 90 centimetri, quant'è, tutta nera, sembra un tubo plastificato, basta un altro, un PL andando, adesso non mi ricordo come si chiama quel modello lì, tu la guardi e è un niente, sembra, guarda, un bastone per un battipanni, e ti dico che arrivava veramente bene, bene, bene, veramente, guarda, poi siamo andati in banda laterale, sempre un SP in C, va bene, sempre in 27, e guarda, si sentiva veramente una meraviglia. Insomma, ti credo, ci mancherebbe. Attenzione, Natalia, non sono i cacchi, mi mandi di 50 miglia su Facebook, tipo, che cazzo è? Gabbina. Tipo, come si chiama? Una chat per fare un'amicizia. E me ne vuole vedere la roba di scuola, vai. Natalia, come vedi? Mamma mia, Natalia, ma sei di varia! Ecco! Avanti! Attenzione, qui è provincia di Varese, voi da dove siamo? Buongiorno Varese, l'isola della Sardegna che ti cordializza, operatore Antonello Barracuda, insieme all'amico Luca di Sassari, avanti Luca per l'amico di Varese. Ciao Varese, vai, salutore Luca qua, sono qua, hai detto, avanti. Attenzione, qui provincia di bene, com'è il tempo lì in Sardegna, Cappa? Tempo è bellissimo, 30 gradi, se non sono 30 saranno 25. Se copi il barracuda. Bene, boh. Se riesci a copiarmi ancora. Kappa, ti copio e ti... comunque si benissimo, è a segnare dai 5 ai 7, Kappa. Ringrazio, ti ringrazio, va benissimo. Io invece com'è che ti esco lì? E qua in questo momento nelle mie coordinate sei un Santiago di 2 e una radio di 3, dai, abbastanza comprensibile, ma tieni conto che la propagazione fa e viene, è un po' ubriaca stamattina. Kappa, notato, Fortunatamente noi abbiamo una bellissima giornata, dai, un leggero vento ma niente di particolare, abbastanza bella. E per il momento il maltempo ancora non è arrivato, come dalle vostre parti. Comunque va benissimo, dai. Riusciamo bene o male a tirarci fuori. Scusami, ti ho copiato bene, cos'hai detto? No, di regola siamo sul canale 10. Canale 10, Sassari e provincia, canale 10. Oggi siamo sull'8 per quella scusa della propagazione, dunque ci siamo arenati qua per il momento. Piorume, buongiorno, se mi copi. Buongiorno anche a te, Carlo, ti ho visto tutto appreso dalla propagazione. E niente, ti ho lasciato fare, dai. Comunque anche io a Varese dalla barra mobile ci arrivo, dai. A voglia, no, vai tranquillo, non c'è niente che tenga la 27, quando c'è propagazione va bene anche un portatile, non ti preoccupare. Che già funge la situazione. Avanti Lucas. No. Luca? Luca magari sta facendo qualche cosa. Cava. No, già va bene, io a voglia. Non è che con l'Inghilterra la macchina ha parlato, quindi non è solo. E quello già è vero, mi sa che c'era un altro break, vediamo un po'. Avanti col buongiorno, operatore Antonello Barracuda. Dall'isola della Sardegna che ti cordializza, avanti. Hola, Barracuda, qui Carlo dal nord Italia, ti posso accostare. Kappa, buongiorno e ben sentito dal Piemonte, Antonello Barracuda, modulazione nord Sardegna, ben sentito. Un controllo dei segnali radio per cortesia. Ah, perfetto, anche tu una bella radio di 5. Giustamente il segnale va e viene, vediamo un po', ti rilancio l'amico Gianni Doppio Room in barra mobile, Sassari, avanti Gianni se copi l'amico. Lo copio con basso perché sta dentro nei palazzi alti, pur avendo l'antenna grande oggi, sono dietro nei palazzi e mi viene male sentirlo, dai. Non so se mi copi lui, ma io sono in movimento anche dietro i palazzi alti, dai, sono qua a Cavalcavia, fermo al semaforo. Attenzione, un amico di Varese, la propagazione sta andando via, già, ti volevo dire, sto uscendo bene, sì, va bene questa radio. E come no? Ah, perfetto, va bene, ho fatto un'altra modifichina. Cosa gli faccio? Sempre tocca i disegni. Ah, no, tocca nella radio, no, nell'impianto che ho sistemato bene, dai, adesso è tutto sotto controllo. Cava. Io sto andando al cimitero, se mi fanno ancora entrare a fare le auguri a mia madre, dai. Ah, va bene, ma penso di sì, dai, dovrebbe essere aperta a quest'ora. E volevo dire, teniamo la curiosità, se riuscite a beccare il simpaticone di pochi giorni fa che si divertiva a mettere portante? No, negativo. Più o meno, ma un rompipalle, guarda, di quelli allottato puro come M2O, Guarda, ce n'è uno ma veramente prepotente. Ma si è ritirato, dai, ho visto che aveva poche chance, si è ritirato. Ma non ho capito la zona da dove modulava, è passato un camionista e ha capito chi era. Non è gente, diciamo, che modula ogni giorno, no? È uno che sta lì a fare le orecchie da buco, così è. Nero Perù. Diciamo che il nome non l'ha detto, però ha detto che la zona e lì c'è poca gente che parla. L'altro stava parlando, quindi faceva per esclusione sempre. Io sono ovviamente d'accordo, ma ti volevo dire, gente che è entrata 3 volte con noi oppure no? Diciamo che entra ogni tanto. ogni tanto, poi io sinceramente non ho la più pallida idea chi fa, chi sia, è la verità. Tutto lì, ma speriamo che gli sia passato su macchine. Quello che stavo dicendo è quello, però non so se sia veritiera la cosa, o quanto è. Gianni, dopo lui. Gianni, ti stanno chiamando. Buongiorno. Che chiama, avanti. Sergio, ma non senti oggi stamattina, te le lavate le orecchie? Ma le lavate, se tu avessi la faccia pulita come sono io, non parleresti così. Mi sono fatto il bagno tranquillamente come ogni giorno, tra l'altro. Cappa, ciao Gianni, tratta da qualche parte, dove stai andando? Non c'è andare che ti chiudono dentro. Sto andando a fare gli auguri a mia madre al cimitero perché mia madre non è più viva, siccome la festa della mamma li voglio mettere i fiori lo stesso. Ah, capo. Va bene, va bene. Vai, certo me. Buongiorno l'amico, se mi copia, non lo so, non ho capito chi sia. Il capo che ti copia, Franco, non so. Ti ho copiato, scusa. Va bene, non ho capito. Ti ho copiato il tuo nominativo. Ha detto Franco, la sorso. Ah, ciao Franco, buongiorno. Arrivi un pochettino passivo in zona mia. Comunque, io riesco un pochettino a tirarti fuori. Ehi, cappa, dove stai lavorando? Ossi, Ossilandia. Ah, cappa, ho capito. Va bene, allora, va bene. Con tutto questo corremme che c'è, già va bene. E a voglia, sì. Da quelle parti come il mio segnale, va bene? Ma qua c'è un segnale di 5 e una radio di 4. Ma sei in condizioni critiche, no? Cosa c'è, un antenino piccolo? No, ragazzi, ho già lavato da uno sul tetto e... è un piccolo baracchino. Ma c'è, come se fossi fuori frequenza, capito? Avanti Genova, si copi l'isola della Sardegna col buongiorno. Operatore Antonello Barracuda, avanti se mi copi. Capa, buongiorno l'amico, anche tu, Santiago di 2, una radio di 2 è abbastanza comprensibile. Sento Genova, se ascolti l'isola della Sardegna, Gabio. Capa, capa, ti copio, ti ricordo tutti bene. Capa, capa, ciao collega, ma aspettavo a Rimano, dai. La stazione doppio Ru che ti super cordializza dall'isola della Sardegna alla città è Sassari. Vuoi dirmi come mi ascolti, mi trovo in barra mobile, K. Questa frase, signore, questo è Radio 45 qui in zona di Genova. Va bene, Antonio, ripeti tu là. Ehi, toglimi la curiosità, amico di Genova, com'è il tempo dalle tue parti? Nuvoloso e scappa piano. Allegria, allora, fatti il biglietto, low cost, qui c'è il sole e ti puoi anche abbronzare. Ci sono 24 gradi, K. Sei in barra mobile? Scusa, non ti ho copiato bene, cosa hai detto? Ah, perfetto, va benissimo. Adesso il segnale leggermente sta aumentando, la propagazione sembra più favorevole, dai. Però vai benissimo, super comprensibile, senza problemi. Modulazione radio limpida. Noi ti devo lasciare, salutami l'amico, vai, che ho trovato il parcheggio e sto scendendo. Un pochettino più lungo con alcune regolazioni e vediamo un po' come riesco a sentirti. Adesso sentite un altro che ti ha passato il tempo. Siamo alle prossime. Prima vediamo un po' cosa viene lì della parte vostra. Sono così che va benissimo, non toccare niente. Buona amplificazione, tutto. Dai, capa, capa con... Attento l'amico di Genova se mi hai copiato. Lascialo così che va benissimo. attento l'amico di Genova, se coppi l'isola della Sardegna.